Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Agalbato legge Bel Ami di Guy de Maupassant, traduzione di Giorgio Caproni. Duroy stava diventando celebre nei circoli politici. Si rendeva conto del suo crescente prestigio dall'intensità delle strette di mano e dall'ampiezza delle scappellate. La moglie, da parte sua, lo colmava di meraviglia ed ammirazione per la sottigliezza dell'ingegno, l'abilità nell'ottenere informazioni e il numero delle conoscenze. L'onorevole La Roche-Mathieu, che pranzava in Rue Fontaine ogni martedì, dopo il conte de Vaudrec che inaugurava la settimana, stringeva vigorosamente la mano a moglie e marito con esagerate dimostrazioni di gioia e non si stancava di ripetere: «Cribbio, che campagna! Se non ce la sfanghiamo stavolta!» Sperava proprio di sfangarcela, infatti, a beccarsi il portafoglio degli esteri, che gli faceva gola da un bel po'. Era uno di quegli uomini politici senza un suo volto preciso, senza convinzioni proprie, senza grandi mezzi, senza ardimento e senza una seria preparazione. Un avvocatuccio di provincia, un simpatico figurino della sua cittaduzza, un furbacchiotto che sapeva barcamenarsi fra i partiti estremisti, una specie di gesuita repubblicano e di fungo liberale di dubbia commestibilità, come ne spuntano a bizzeffe sull'etamaio popolare del suffragio universale. Otteneva successi in società, in quella società mista, torbida e piuttosto grossolana, formata dagli alti funzionari del momento. Sentivi ripeter dovunque: «La Roche diventerà ministro». E che La Roche sarebbe diventato ministro, era il primo lui ad esserne convinto, più fermamente d'ogni altro. Duroy lo appoggiava fiducioso e con vaghe speranzielle per il futuro. D'altronde, in ciò non faceva altro che continuare l'opera intrapresa da Forestier, al quale La Roche-Mathieu aveva promesso la Legion d'Onore per il giorno del suo trionfo. L'onorificenza sarebbe finita sul petto del nuovo marito di Madeleine. Ecco tutto. Una sera, a tavola, Duroy, a cui piacevano le robe dolci, domandò: «Perché non c'è qualche pasticcino? Non ne fai mai servire?» La giovane signora rispose divertita: «Già, non ci penso. È che Charles li aveva in uggia e...» Lui le troncò la parola in bocca, con uno scatto di impazienza che non seppe dominare in tempo. «Ma insomma, questo Charles comincia proprio a scocciarmi. È sempre fra i piedi. Charles qui, Charles là, e a Charles piaceva questo, e a Charles piaceva quest'altro. Giacché Charles è crepato, lo si lasci riposare in pace». Madeleine guardò il marito piena di meraviglia, non riuscendo a capire un'acca di quell'improvvisa sfuriata. Ma poi, fine com'era, qualcosa intuì di ciò che stava avvenendo in lui, qualcosa della gelosia postuma che in ogni istante veniva fomentata da tutto ciò che gli ricordava l'altro. Tale gelosia le parve un tantino puerile, forse, ma se ne sentì lusingata e non rispose nulla. Una sera, sulla fine di giugno, mentre Duroy fumava una sigaretta alla finestra, il gran caldo gli fece venire voglia d'una passeggiata. Domandò: «Mia piccola Mad, vuoi venire fino al Bois?» «Sì, con piacere». Presero una carrozza aperta, raggiunsero gli Champs-Élysées, poi l'Avenue du Bois de Boulogne. Era una notte senza vento, una di quelle notti bollenti in cui l'aria surriscaldata di Parigi entra nei polmoni come l'alito d'un forno. Un esercito di carrozze portava a spasso sotto gli alberi una folla di innamorati. Georges e Madeleine si divertivano a guardare tutte quelle coppie abbracciate che passavano in botticella. Era un immenso fiume d'amanti che scorreva verso il Bois, sotto il cielo stellato e ardente. Non si sentiva un rumore, tranne il sordo rotolio delle ruote sul viale. La calda oscurità sembrava gremita di baci. Un senso di fluttuante tenerezza, di diffuso amore ferino, appesantiva l'atmosfera, la rendeva ancora più afosa. Tutti quegli esseri accoppiati, ubriacati dallo stesso pensiero, dallo stesso ardore, trasmettevano all'intorno la loro febbre. Georges e Madeleine si sentirono contagiati anche loro dalla tenerezza. Si presero dolcemente la mano senza dirsi una parola. Un poco oppressi dall'aria pesante e dalla commozione che li aveva colti. Georges mormorò: «Oh, mia piccola Mad!» e se la strinse al petto. In capo a un minuto domandò: «Ci sei mai venuta, così di sera qui, con Charles?» Lei rispose: «Ma certo, spesso!» D'improvviso, allora, gli venne voglia di tornare a casa. Un desiderio pieno di nervosismo che gli opprimeva il cuore. L'immagine di Forestier gli era ormai penetrata nello spirito, lo possedeva, lo soffocava. Domandò con una punta di cattiveria: «Dimmi, Mad, che cosa, caro? L'hai mai fatto becco, il povero Charles?» Lei mormorò sdegnata: «Stai diventando veramente sciocco con questo tuo ritornello!» Ma lui non abbandonava la sua idea fissa. «Su, mia piccola Mad, sii sincera, confessalo. L'hai fatto becco? Di!» Lei taceva, urtata come tutte le donne da quella parola. Lui riprese ostinato: «Cribbio! Se qualcuno aveva la sagoma del cornuto, era proprio lui, per bacco! Ecco cosa mi piacerebbe sapere. Se Forestier era veramente becco!» Sentì che lei dentro di sé sorrideva, forse a un qualche ricordo, e tornò a insistere: «Su, dimmelo! Che c'è di male? Non sarebbe anzi divertente che tu me lo dicessi? Che tu lo confessassi proprio a me che l'hai ingannato?» Sì, ardeva di speranza e di desiderio che Charles, l'odiato Charles, il morto aborrito, il morto esecrato, fosse stato coperto di quella vergogna e di quel ridicolo. E tuttavia, tuttavia, un altro sentimento diverso, più confuso, pungolava la sua voglia di sapere. Continuava a ripetere: «Mad, mia piccola Mad, ti prego dimmelo, se lo sarebbe proprio meritato. Avresti avuto torto marcio a non fargli portare le corna. Su, Mad, confessalo!» Lei si scostò di scatto e disse brusca: «Ma sei scemo! Non son domande da fare queste!» Aveva detto ciò con voce strana, tanto strana che il marito sentì un brivido di gelo corrergli nelle vene e se ne rimase lì interdetto, sgomento, quasi senza fiato, come sotto l'influsso d'una violenta scossa morale. Georges gridò al vetturino: «Torniamo indietro!» E la vettura prese la via del ritorno, incrociando le altre che andavano al passo, coi loro grossi fanali che brillavano come tanti occhi nella notte del bois. In che curioso modo lei gli aveva parlato! Duroy si domandava: «È stata una confessione?» Se ne stava lì, inerte, le braccia conserte, gli occhi al cielo, l'animo troppo agitato per poter riflettere ancora. Non sentiva altro che un grande astio fermentargli dentro e ingigantirsi quella collera che cova in cuore ogni maschio davanti ai capricci del desiderio femminino. Provava per la prima volta la confusa angoscia dello sposo che sospetta. Madeleine, imbarazzata da quel silenzio, chiese: «Se andassimo a prendere un gelato da Tortoni prima di tornare a casa?» La guardò con la coda dell'occhio. Il profilo fino e biondo di lei gli apparve nel chiarore vivo delle fiammelle a gas che annunziavano un caffè chantant. Pensò: «È bella. Meglio così. A buon cane, buona lepre, cara mia. Ma farà caldo al Polo Nord se mi ribeccheranno a tormentarmi per te.» Poi rispose: «Ma certo, tesoro!» E perché non s'accorgesse di nulla, le diede un bacio. La giovane signora ebbe l'impressione che le labbra del marito fossero di ghiaccio. Lui però sorrideva col suo consueto sorriso quando le porse la mano per aiutarla a scendere davanti agli scalini del caffè. A casa sentì delle voci femminili in salotto. Domandò: «Chi c'è?» Il domestico rispose: «La signora Valtaire e la signora De Marelle.» Ebbe un tuffetto al cuore, ma subito si riprese. «Su, coraggio! e aprì l'uscio. Clotilde era a fianco del caminetto, in un raggio di luce proveniente dalla finestra. Gli parve che, nello scorgerlo, fosse un poco impallidita. Dopo aver salutato la signora Valter e le due figlie, che sedevano accanto alla madre come due sentinelle, una di qua e una di là, si volse verso l'ex amante. Costei gli porse la mano. Georges gliela prese e la strinse con intenzione, come per dirle «l'amo ancora». Clotilde rispose alla stretta. Lui domandò «è da un secolo che non ci vediamo. Sempre in buona salute?» «Sicuro», rispose disinvolta. «E lei, Bellamy?» Poi aggiunse, rivolta a Madeleine, «permetti che continui a chiamarlo Bellamy?» «Ma certo, cara, ti permetto tutto quello che vuoi». C'era nascosta come una sfumatura d'ironia in quelle parole. La signora Valter stava parlando d'una festa organizzata da Jacques Rival nel suo appartamento da scapolo, un grande torneo schermistico al quale avrebbero assistito molte gentildonne. Diceva: «Sarà una cosa interessantissima, ma sono desolata. Non abbiamo nessuno che ci accompagni. Mio marito dovrà assentarsi proprio quel giorno». Duroy si offrì subito. Lei accettò. «Gliene saremo molto grate, le mie figliole ed io». Lui guardò la più giovane delle due signorine Valter e pensò: «Mica poi troppo male la piccola Suzanne. Proprio niente male». Pareva una fragile pupattola bionda, troppo piccolina, ma fine, ben messa di fianchi e di petto, un faccino da miniatura, una carnagione troppo bianca, troppo liscia, levigata, tutta unita, senza granulosità o macchie di colore, e capelli scarruffati, arricciati, un sapiente e vaporoso intrico, una nuvola deliziosa, simile in tutto alla capigliatura delle vezzose bambole di lusso, molto più alte delle birichine che le tengono in braccio. La sorella maggiore, Rose, era brutta, piatta, insignificante, una di quelle ragazze che passano inosservate, senza che nessuno le degni d'una parola o d'un commento. La madre si alzò e, rivolta a George, disse: «Conto dunque su di lei per giovedì prossimo alle 2?» Lui rispose: «Sì, conti pure su di me, signora». Quando se ne fu andata, la signora De Marelle si alzò a sua volta. «Arrivederci, Bellamy!» Fu lei adesso a stringergli la mano con molta energia, a lungo. E lui si sentì turbato da quella muta confessione, ripreso da un brusco capriccio per quella borghesuccia scapigliata ma brava figliola che forse gli voleva veramente bene. «Domani andrò a trovarla», pensò. Rimasto solo con la moglie, questa si mise a ridere, d'un riso aperto e gaio, e guardandolo bene in faccia gli disse: «Lo sai che la signora Valter ha preso una cotta per te?» «Ma via, andiamo», rispose lui incredulo. «Ma sì, t'assicuro, m'ha parlato di te con entusiasmo. Strano da parte sua. Le piacerebbero per le sue figliole due mariti come te. Meno male che con quella a certe cose non si dà peso». George non capiva che intendesse dire e fece: «Come non si dà peso?» «Oh», rispose lei da donna convinta e sicura del fatto suo, «la signora Valter è una che non ha mai dato adito ad un mormorio. Dico mai, capisci? Mai e assolutamente mai. È inattaccabile da tutti i lati. Suo marito lo conosci quanto me, ma lei è tutt'altra cosa. Anche se sposare un ebreo le è costato parecchio, gli è rimasta egualmente fedele. È una donna onesta». Duroy rimase sorpreso. «Credevo che fosse ebrea anche lei». «Ebrea lei? Ma che! È patronessa di tutte le opere di beneficenza della Madeleine. S'è perfino sposata in chiesa. Non ricordo più se c'è stato un simulacro di battesimo del principale o se la chiesa ha chiuso un occhio». George mormorò: «E così lei è cotta di me?» cotta e stracotta. Se tu fossi ancora libero, ti consiglierei di chiedere la mano di Suzanne, no? Il giorno dopo, finito di pranzare, Duroy si recò realmente in Rue de Verneuil. Gli aprì la solita donna di servizio che gli chiese familiarmente, come fan tutte le domestiche della piccola borghesia, «Come andiamo, signor Duroy?» «Bene, piccola», rispose lui. Ed entrò in salotto, dove una mano inesperta stava eseguendo delle scale al pianoforte. Era Lorine. Pensò che gli sarebbe saltata al collo. Invece si alzò seria, salutò cerimoniosamente come avrebbe fatto una persona grande e si ritirò contegnosa. Quel suo modo di fare da donna oltraggiata lo lasciò a bocca aperta. Entrò la madre. Le prese e le baciò le mani dicendo «Quanto ho pensato a lei». Si sedettero. Si sorridevano, gli occhi negli occhi, con una gran voglia di baciarsi sulle labbra. «Mia cara piccola Chloe, ti amo. Anch'io». «Allora non mi serbi troppo rancore». «Sì e no. Ho sofferto molto. Poi ti ho capito e mi sono detta «Ma tornerà a me un giorno o l'altro». «Non osavo venire. Non sapevo come mi avresti accolto. Non osavo, ma morivo dalla voglia». «Ma di, che ha Lorine? Ma ha appena salutato e se n'è andata che m'avrebbe mangiato vivo». «Non so, ma non vuol più sentir parlare di te da quando ti sei sposato. Penso proprio che sia gelosa». «Ma via». «Sì, caro. Non ti chiama più Bel Ami. Ti chiama il signor Forestier». Duroy avvampò. Poi, avvicinatosi a Clotilde, disse «Dammi la bocca». Lei gliela porse. «Dove potremo rivederci?» domandò Georges. «Ma... in Rue de Costantinople». «Ah, allora l'appartamento non è stato affittato». «No, l'ho tenuto. Ho pensato che saresti tornato». Una folata d'orgogliosa letizia gli gonfiò il petto. Lo amava dunque costei, d'un amore vero, costante, profondo. Le mormorò «Ti adoro». Poi le chiese «Tuo marito sta bene?» «Sì, benissimo. Ha passato un mese qui. È partito ieri l'altro». Duroy non seppe trattenere il riso. «Proprio quel che ci voleva». «Sì, proprio quel che ci voleva», rispose lei candidamente. «Ma anche quando è qui non disturba, lo sai». «È vero. È proprio un amore d'uomo». «E tu», disse lei, «come ti trovi con la tua nuova vita?» «Né bene né male. Mia moglie è una compagna, una socia». «Nulla di più?» «Nulla di più. Quanto al cuore, capisco». «È carina, però». «Sì, ma non mi turba affatto». Si avvicinò a Clotilde e mormorò «Quando ci rivedremo?» «Domani, se vuoi». «Sì, domani. Alle 2?» «Alle 2». Si alzò per andarsene, poi balbettò un poco imbarazzato. «Sai, ho intenzione di prendermelo io, da solo, l'appartamento di Rue de Costantinople. Lo esigo». «Ci mancherebbe che continuassi a pagarlo tu». Fu lei ora a baciargli le mani in uno slancio d'adorazione, mormorando «Fa come ti pare. A me basta averlo conservato per poterci rivedere». Elsa Galbato ha letto Bel Ami di Guy de Maupassant, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.